417. Carciofi in umido con la nepitella. Se vi piacesse di sentire questi carciofi con l'odore della nepitella, ecco come dovete regolarvi. Levate i carciofi tutte le foglie non mangiabili e divideteli in 4 spicchi ognuno, od anche in 6 se sono grossi, e infarinateli e poneteli al fuoco in una teglia di rame con olio in proporzione, condendoli con sale e pepe. Quando li avrete rosolati, uniteci un battutino composto di uno spicchio d'aglio, o di mezzo soltanto se i carciofi sono pochi, e un buon pizzico di nepitella fresca. Quando avranno tirato l'umido, terminate di cuocerli con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Possono servir di contorno o essere mangiati soli.